segnato qualche flash dal mio passato. Aspetto nel buio un soffio di fiato che forse mai più mi attraverserà. Il gioco è bello, ma un'ansia avvolge i miei pensieri e la bellezza tua. Cuore caldo, io tu Morgana, per sempre qui aspettando te. Trasformo in Dio, sento che nessuno mi potrà appoggiare. La mia strada è lì, lì davanti a me. Una birra mi farà dimenticare. Sento freddo e tu, tu non ci sei più. Ladra dei miei sogni, ma avverati. La tua ombra offusca i miei pensieri. Così oggi come ieri. Yeah.